La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, questa è l'ora di cinema settimanale di Radio 24, come sempre una guida per i film in sala nel fine settimana, per i film anche da vedere durante la prossima settimana in TV, in un video, insomma una guida per cercare il meglio fra tutto il cinema che c'è. È una settimana dominata da due film in uscita, entrambi molto attesi, entrambi firmati da autori importanti, uno italiano, uno americano, uno riuscito, l'altro no, o almeno molto molto meno. Stiamo parlando ovviamente di To Run With Love di Woody Allen ed è Il Primo Uomo di Gianni Amelio. Ne parleremo diffusamente in questa trasmissione, però entriamo nel vivo dei temi della puntata, nei nostri titoli di testa. Un po' racconto biografico, un po' romanzo di formazione. Arriva sul grande schermo Il Primo Uomo, il nuovo grande film di Gianni Amelio ambientato nell'Algeria degli anni 50, sospesa tra rivoluzione e tolleranza. Il regista Leone d'Oro ospita la Rosa Purpurea. Dopo Londra, Barcellona e Parigi, tocca a Roma. Woody Allen all'italiana in To Rome With Love. Quattro episodi sullo sfondo della città eterna, con un super cast che va da Roberto Benigni ad Alec Baldwin, da Jesse Eisenberg allo stesso Woody Allen, che però stavolta non convince. 5 milioni di spettatori solo nella Corea del Sud, dove ha sconfitto anche Kung Fu Panda. È Leafy, il racconto della storia di una gallina che fa da mamma a un anatroccolo. Animazione tradizionale e grande emozione sugli schermi italiani. Dopo il successo in sala, arriva in DVD e Blu-ray Real Steel la storia di un padre, di un figlio e del loro pugile robot che ha commosso il pubblico di tutto il mondo. Ne parliamo nello spazio dedicato all'home video. Siamo a Roma. Io me ne sto qui e da qui vedo ogni persona. In questa città nascono tante storie. E allora, questo è il vigile urbano di Roma, che fa da cicerone, possiamo dire, in Caronte all'interno di questo fiume in piena che è la vitalissima Roma odierna. E questo è To Run With Love, il ritorno in sala sul grande schermo di Woody Allen, nemmeno un anno dopo l'arrivo in sala di Midnight in Paris, clamoroso successo, tra l'altro, oltre che film bellissimo, clamoroso successo anche di pubblico, uno dei maggiori incassi di Woody Allen di sempre. E chiaramente c'era molta attesa su questo ritorno, anche perché, come appunto sapete, avrete sentito sicuramente mille volte durante la scorsa estate, questo film è stato girato interamente a Roma e quindi era, come dire, dopo Barcellona, Londra, Parigi, l'omaggio di Woody Allen alla capitale italiana, insomma all'Italia in generale. Diciamo subito che è un film non particolarmente riuscito, purtroppo un passo indietro rispetto a Midnight in Paris, quasi Roma non avesse ispirato a Woody Allen, o forse c'era anche un po' di stanchezza, perché un film ogni 8-9 mesi non è neanche semplice farlo e soprattutto concepirlo. Insomma, alla fine la frittata non mi sembra particolarmente riuscita, ma di analisi ne faremo dopo. Cominciamo un po' a raccontarlo. Intanto non è un solo film, ma sono alcuni rivoli, almeno quattro grandi storie che si rincorrono, si intrecciano sullo sfondo della Roma contemporanea. Ci sono per esempio i personaggi di Woody Allen e Judy Davis, sono due anziani genitori che sono venuti, diciamo, in Italia a conoscere il nuovo fidanzato romano, peraltro comunista e avvocato, della loro ragazza, che era venuta a Roma per una gita e si è innamorata e ha deciso di rimanere fedele alla città eterna. Senti, ci hanno dato una camera eccezionale. Hai sposato uno molto in gamba. Io come quoziente di intelligenza ho 150-160. Stai calcolando in euro. In dollari è molto meno, tesoro. Ecco, tra l'altro il ritorno di Woody Allen anche davanti alla macchina da presa è un ritorno molto molto gradito, perché nel cast molto molto variegato c'è anche Woody Allen, che torniamo a vedere come attore. Ricorderete anche Midnight in Paris si era dato solamente la patente di regista. C'è poi Penelope Cruz, una bellissima prostituta che doveva finire in un'altra stanza, ma finisce invece nella stanza sbagliata, quella di un ragazzo che si trova a Roma con la sua fidanzata per progetti di vita, chissà, spostarsi da Pordenone alla capitale italiana. È uno molto timido, molto timorato, e si trova questa vera e propria leonessa nel suo letto. Congratulazioni, è già tutto pagato. Sono tutta tua, tutta per te. Ma guardi che ci deve essere un errore. Hai un... Io sono qui per soddisfare i tuoi sogni. Poi tocca a Jesse Eisenberg, lo ricorderete, il protagonista di The Social Network, insieme ad Ellen Page. In realtà non dovrebbe starci troppo insieme, perché il ragazzo Eisenberg vive a Roma con la sua fidanzata e anche con una sorta di personaggio che non capiremo mai fino in fondo quanto è vero e quanto lo è solo in parte, che è interpretato da Alec Baldwin. È una specie di tutore sentimentale che cerca di portare questo ragazzo in giro per Roma alla ricerca di errori da evitare, e uno degli errori da evitare sarebbe proprio quello di innamorarsi di questa bellissima Ellen Page, amica, la migliore amica della sua fidanzata, e nonostante tutti i prodromi, nonostante tutti gli avvisi, i due finiranno per incastrarsi l'uno con l'altra. Ho vissuto a Roma per un anno quando avevo la tua età. Ah, certo, questa era proprio la mia strada. La posso invitare per un caffè? La mia amica si è appena lasciata col suo ragazzo e io le ho detto che può stare da noi. È in gamba, è divertente. Gli uomini, sai, la adorano. Credo che sia per l'energia sessuale che emana. Io ho sempre avuto una gran voglia di andare a letto con una donna. Quando finalmente l'ho fatto è stato molto intenso. È speciale, no? E poi c'è Roberto Benigni. Roberto Benigni che è la vera attrazione, se vogliamo, almeno in Italia, di questo film, nei panni di un uomo baciato da un'insolita e improvvisa celebrità. Un uomo che è un impiegatuccio così, senza una storia particolare, e che improvvisamente, per ragioni che non verranno mai svelate, diventa l'oggetto vero del contendere delle televisioni di tutto il mondo. Ti ho visto in ufficio e non potevo resisterti. Dicono che il potere è afrodisiaco. E lei chi? Tania, la mia amica del cuore. Muore dalla voglia di venire a letto con te. Le ho promesso che avessi fatto l'amore con lei dopo di me. Sarà uno dei giorni più belli della sua vita. Sai, lui si preoccupa perché è sposato. Signor Pisanello, per lei le regole non contano. Lei è uno speciale. E allora, lei è uno speciale, chissà perché, e chiaramente Benigni prende a cuore questa situazione di essere diventato qualcuno per poi ritrovarsi a un certo punto a tornare ad essere uno dei tanti. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, stiamo parlando di To Run With Love, il nuovo film di Woody Allen sugli schermi italiani interamente ambientato a Roma. Abbiamo sentito nella prima parte, abbiamo fatto un po' una breve conoscenza con i personaggi di questo film collettivo, in cui le storie tra l'altro non si intrecciano praticamente mai, cioè il vero thread d'unione è proprio Roma come una sorta di grande sfondo per le proprie avventure, perché tutto diventi speciale. È un po' la Roma che è vista con gli occhi di un innamorato americano come Woody Allen, che sentiremo fra poco. Però dicevamo all'inizio, un film poco riuscito, un film complessivamente un po' stanco in termini anche di creatività, di ispirazione vera e propria, un film dove il registro interpretativo e anche registico proprio dei quattro filoni principali, delle quattro storie principali, è assai diverso, assai eterogeneo. A volte potrebbe essere un bene, ma qui proprio sembra che siano quasi quattro mani diverse avere messo insieme questi film. La riuscita dei quattro episodi è molto molto diversa. Per esempio, l'episodio più riuscito è senza dubbio quello che vede protagonista Jesse Eisenberg ed Ellen Page, questi due ragazzi che non dovrebbero incontrarsi e invece si incontrano, non dovrebbero innamorarsi e invece si innamorano, comprende anche la fidanzata, un po' stupidina, perché insomma li mette in contatto sostanzialmente l'uno con l'altro, e con un Alec Baldwin che fa un po' la voce fuori campo, quasi il coro greco, no? Il grande consigliere spirituale e sentimentale del ragazzo. Ecco, quella è forse davvero la parte più riuscita, dove il contrasto fra i personaggi e lo sfondo romano si esalta maggiormente. La parte di Roberto Benigni è totalmente onirica, surreale, a parte il fatto che non ci viene mai spiegato perché questo signor Pisanello diventi un giorno l'uomo più ricercato dalle TV di tutto il mondo. Forse anche un pretesto, potevamo anche riceverlo dal grande Woody Allen. Funziona così l'episodio Woody Allen Judy Davis, funziona molto bene perché c'è Woody Allen davanti alla macchina da presa e ci regala alcune delle sue sferzanti battute. Alle prese con i genitori, con i consuoceri, diciamo, che sono venuti a conoscere proprio a Roma, tra cui il cantante lirico Fabio Armiliato, che sa cantare cantare solamente sotto la doccia, per cui viene allestita una messa in scena, vengono allestite alcune messe in scena operistiche, tra cui quella dei pagliacci, con lui che quando è il momento di tirare fuori la voce è proprio incapsulato in un box doccia sul palcoscenico del teatro. Insomma, vedete, c'è sono tante cose lontane dalla realtà, quasi surreali, ci sono tante cose invece ancorate ai temi più cari a Woody Allen, però tutto questo non lascia lo spettatore senza momenti di anche un po' di noia in certe lungaggini, e ci si dice, ci si chiede e ci si interroga sul fatto che forse alcuni episodi potevano essere dilatati, alcuni addirittura quasi annullati. Insomma, non è una mano felicissima quella di Woody Allen, che non ci ha regalato questa volta un gioiello come quello che è stato appunto l'idea semplice ma straordinaria di Midnight in Paris. Sarà forse perché gli americani, quando parlano dell'Italia, hanno sempre, soprattutto cinematograficamente, hanno sempre molta soggezione. Sembra quasi che Woody Allen si sia divertito a voler fare tanto cinema italiano diverso, cioè a volere omaggiare tanti tipi, tanti generi del cinema italiano degli anni d'oro. Sentiamolo, Woody Allen. All Americans are in awe of Italian. Tutti gli americani sono in soggezione verso gli attori italiani. Siamo cresciuti guardando grandi film. E poi l'italiano. Tutto suona meglio in italiano. Sai, quando guardo qualcosa in inglese suona ok, ma in italiano suona come un vero film. E a proposito delle sue ormai frequenti escursioni europee, potrebbe esserci ancora Europa nei suoi film? Penso che ogni tanto dovrei girare un film a casa e ho avuto un'idea molto buona per gli Stati Uniti. Ma tornerò in Europa subito dopo perché mi piace passare l'estate e girare film in Europa. Eh beh, insomma, è già un bel lavoro, puoi farlo nei posti più belli del mondo, è ancora meglio. Alec Baldwin, dicevamo, una delle cose riuscite di questo film, ha dato un po' il suo parere su questo aspetto della celebrità improvvisa che colpisce il personaggio di Roberto Benigni e che è un po' la chimera che tutti inseguono al giorno d'oggi. Penso sia strano, in America è tutto un grande reality show, sai? È interessante come in America più problemi ci siano, più gli americani abbiano bisogno di concentrarsi su questi problemi e risolverli, più tantissime persone, non tutte, non vogliono farlo. Vogliono qualcosa che li distragga da questi problemi, così seguono queste cose senza senso. Quello che succede nella vita privata degli attori e delle persone famose non è davvero interessante, ma ormai è stata creata un'industria a riguardo, per cui quello che ho e voglio io è quello che tutti vogliono e si spera abbiano. È stata dura. E Penelope Cruz, alla fine, dicevamo, la leonessa, questa prostituta che diventa un po' anche una sorta di iniziatrice a una vita non solo sessuale ma anche proprio sentimentale in genere più ampia per il ragazzo che le capita fra le mani. It's like everything starts all over, it's like you start your life, you know, again. È come ricominciare tutto da capo, come se la tua vita ricominciasse da capo. Attraversi di nuovo la tua infanzia e riscopri tutto. Gli alberi, gli animali, il cielo e gli aerei, come se vedessi tutto per la prima volta. E ovviamente questo influisce sul tuo lavoro, perché approcci tutto con altri occhi. Approaching everything with new eyes. E allora queste erano le voci dei protagonisti di To Run With Love. Penelope Cruz nello specifico parlava proprio del fatto di aver girato a Roma e della bellezza che la circondava. Siamo arrivati al game, siamo arrivati alla prima traccia del DVD game di oggi, come sempre tre frammenti di un film misterioso che dovete indovinare con vostro indirizzo di posta ordinaria, scrivendo alla nostra posta elettronica per provare a vincere una copia di questo DVD. Sentiamo. Incantato, signora! Benvenuta, bienvenue, marhaba! Siamo onorati dalla sua presenza. Oh, sì! Altro che, signor insalata! Procurabili, pillici! La Rosa Purpura @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta, più tardi ci saranno altre due possibilità. Ebbene, parliamo adesso di un film d'animazione, prima di dare poi lo spazio che merita al film di Gianni Amelio, Il primo uomo, tra l'altro con Gianni Amelio che fra poco sarà nostro ospite qui alla Rosa Purpurea. Dicevamo, un film d'animazione che arriva dalla Corea, è un'operazione molto importante, perché ha avuto un successo clamoroso questo film intitolato Leafy, nel sottotitolo italiano La storia di un amore, è un amore madre-figlio, una madre un po' particolare, diciamo così. Nel titolo originale Una gallina in libertà, è già c'entrava meglio cosa con quello che era appunto il tema centrale di questo film. C'è una gallina di nome Leafy, appunto, che non sopporta il fatto di restare nel pollaio, riesce a fuggire, una gallina in fuga, potremmo dire, parafrasando un altro celebre film d'animazione, e a un certo punto trova un anatroccolo rimasto orfano e decide di allevarlo come se fosse sua madre. Tutto questo chiaramente porterà una serie di equivoci, di ostacoli, di problemi che sono in certi momenti molto divertenti, in certi momenti molto commoventi. Un'animazione assolutamente tradizionale. Pensate, questo film in Corea ha fatto qualcosa come 5 milioni di spettatori, è stato un successo clamoroso e in Corea del Sud, e ha battuto, perché era uscito in contemporanea, anche Kung Fu Panda nel suo paese. Arriva in Italia, una storia molto bella, molto, molto particolare, che ci sentiamo di consigliare. Tra l'altro in Corea hanno fatto le cose in grande, cioè le voci originali del cartone animato sono quelle dei grandi attori coreani come Choi Min-sik, l'attore di Old Boy, qualcuno se lo ricorderà, oppure Moon Soo-ri, che ha fatto un film come La moglie dell'avvocato, film che sono arrivati anche in Europa. Insomma, l'impianto è stato quello del cinema d'animazione americano, però l'etica di questa storia è proprio l'etica coreana del sacrificio prima ancora che dell'amore. Sentiamo una clip. Tranquillo, mi prenderò io cura di te. Il mio piccolo ha fame? Da quando una gallina può mettere al mondo un'anatra? Questa sì che è bella! Non posso perdere tempo con te, sono una lontra molto impegnata io! Continua così, farai una brutta fine! Ebbene, avete sentito un attimo il respiro, così, giusto per entrare nel clima di questo Leafy. Un consiglio particolare per questo fine settimana. Diamo un'occhiata un po' alla classifica. Abbiamo detto To Run With Love, chiaramente il film candidato più di tutti a dare l'assalto ai vertici del botteghino che sono stati scossi durante lo scorso fine settimana dalla presenza di Battleship di Peter Berg, che ha preso la testa della classifica con 2.137.000 euro nel weekend. Ma pensate, Titanic è subito dietro, ancora una volta, al suo secondo weekend di riprogrammazione, 15 anni dopo la sua prima uscita, più di 2 milioni di euro di incasso, un globale che supera i 6 milioni. Titanic in questa nuova versione si avvia ad essere ancora una volta uno degli incassi più importanti della stagione. Resiste bene, devo dire, non mi aspettavo così bene. Biancaneve al terzo posto, Quasi amici, il fenomeno dell'anno, è arrivato a 13 milioni ed è in quarta posizione. Esordio buono, forse ci si aspettava qualcosa di più, ma i problemi di un certo tipo di cinema italiano da qui li abbiamo sempre detti, e quindi quinto posto per Diaz di Daniele Vicari, nostro ospite la scorsa settimana, con 664.000 euro, che batte comunque il Robert Pattinson di Bellamy. Questo per dare un'inquadratura alla classifica. Chiaro che il film di Woody Allen può arrivare molto molto davanti, vuoi la presenza di Benigni, vuoi il fatto che è Woody Allen, vuoi il fatto che è girato a Roma. Non sarà così, ma speriamo comunque in incassi importanti che regalino la giusta soddisfazione al film di Gianni Amelio, del quale parleremo fra poco, Il primo uomo. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme, La Rosa Purpurea. È arrivato il momento di parlare del film di Gianni Amelio. Abbiamo detto in apertura, due film molto importanti questa settimana in sala. Da una parte due grandi autori, Woody Allen e Gianni Amelio, due film molto attesi, senza dubbio. Uno poco riuscito, quello di Woody Allen, adesso parliamo di quello molto riuscito, cioè quello di Gianni Amelio, Il primo uomo. Un film molto particolare, come ci ha ormai abituato Gianni Amelio nel suo cinema, che racconta una storia che è un po' romanzo di formazione, un po' ritorno alle radici, la storia dello scrittore Jean Cormery, interpretato da Jacques Gamblin, che torna sui suoi luoghi d'origine, la sua Algeria negli anni 50, quando la questione algerina sta per esplodere, anzi forse già in realtà esplosa nella gente, sta per esplodere anche a livello proprio militare. Questo viaggio è un viaggio per ritrovare sua madre in realtà, ma anche per rivivere, rivedere i luoghi che lo hanno visto bambino, e forse cercare anche le tracce di quel padre che è rimasto solo un racconto di una nonna dispotica o di una mamma dolcissima, un padre morto durante la prima guerra mondiale. Ma è anche un viaggio per cercare di capire com'è che due popoli che sono stati amici per tanto tempo a un certo punto sembrano non poterlo più essere. Allora noi entriamo un po' nelle atmosfere del primo uomo, ovviamente non abbiamo detto, ma è una cosa fondamentale da dire, tratto dal romanzo incompiuto di Albert Camus, tra l'altro manoscritto ritrovato nella macchina in cui Albert Camus trovò la morte, quindi anche qui c'è una poetica che pervade questa storia sin dal primo momento. E poi ne parliamo con Gianni Amelio. Te lo ricordi quello che vi dicevo a scuola? Un bambino è il germoglio dell'uomo che diventerà. Sono i poveri. I poveri? Siamo noi. Io, te, la nonna, lo zio Etienne. Se siamo noi i poveri, allora va tutto bene. Voi avete dichiarato che la politica non vi interessa, ma oggi in Algeria tutto è politica. E allora, Gianni Amelio è qui con noi alla Rosa Purpura, lo saluto. Ciao Gianni. Ciao, buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Senti Gianni, c'è in questo tuo straordinario film, non esito a dirlo, Il primo uomo, c'è molto del tuo cinema, insomma, dei tuoi temi. Pensiamo per esempio al ruolo di questo bambino e al tuo cinema dei bambini e anche al confronto fra le culture che ha animato molto spesso il tuo cinema. Come ci sei arrivato, come hai deciso di andare dentro questa storia anche così biografica, anche così dolorosa di Albert Camus? Devo dire che il libro mi è venuto incontro, io non ci avrei pensato perché mi sembrava un atto un po' impervio, un romanzo enorme, non compiuto, però ricco di spunti, ricco di storie. È difficile farne un film di un'ora e mezza mettendoci un po' il senso compiuto di tutto. Penso di avercela fatta cercando una strada che poi è quella che ho già confessato in questi giorni facendo delle interviste sul film, vale a dire mettendomi un po' nei panni di e cercando di raccontare anche un po' me stesso, quindi non un atto di presunzione ma in fondo un atto di umiltà, riuscire a raccontare una persona non esistita, una persona poi del calibro di Camus, era un'impresa che non si poteva affrontare se non cercando anche un po' nella mia memoria personale. Almeno la parte dell'infanzia ci ha accomunati per tante ragioni curiose, cioè tutti e due senza padre, tutti e due vissuti con una madre e una nonna dispotica, tutti e due in qualche modo salvati da un maestro elementare che ci ha fatto studiare, tutti e due costretti a lavorare durante i mesi in cui non si andava a scuola per portare qualche soldo a casa, cioè una vita da ragazzi in qualche modo simile da una parte e dall'altra del Mediterraneo. La Calabria degli anni 50 è come specchio dell'Algeria degli anni 20. Un azzardo, ma non più di tanto. Vi fa male la pancia? Volete un po' d'acqua? Non ho fatto i compiti. Io nemmeno. Ma io sono il maestro. È grave? Ti ricordi che cosa c'era da studiare? Bisognava imparare Napoleone. E come facciamo adesso? C'è scritto sul libro. Lo possiamo guardare insieme. Tu mi puoi dare una mano? Sì, se volete. Allora apri il libro. Andiamo tutti a pagina 49. E allora, Gianni, hai parlato della figura del maestro. Abbiamo ascoltato questa clip, tra l'altro, con il doppiaggio di Sergio Rubini. Dopo ci spiegherai anche un po' questa, la ragione di questi attori che fanno veramente gli attori al doppiaggio. La figura del maestro, così importante, perché soprattutto in quegli anni era la figura di qualcuno che spesso ti toglieva da un destino che sembrava già precompilato dalle famiglie, spesso anche dalle condizioni economiche in cui le famiglie versavano, e ti regalava un avvenire diverso. E credo che Camus sia stato, come dicevo prima, letteralmente salvato dal suo maestro, perché era destinato a scomparire, come tanti, scomparire in senso proprio umano, perché la miseria purtroppo ti cancella dalla faccia della terra, ti fa diventare una cosa invece che una persona. E questo maestro che appunto dice in un altro brano del film che un bambino è sempre in germe l'uomo che diventerà, si appassiona alla vita di questo bambino, vede la famiglia di questo bambino, la assoluta mancanza di futuro di questo bambino, e cerca di darglielo lui, lo fa andare a scuola, combatte addirittura contro questa nonna del bambino che vorrebbe che si mettesse subito a lavorare per portare soldi a casa, e dice che normalmente quando si ha un diploma non ci si può mangiare subito con questo diploma, non è che un pezzo di carta te lo metti su un piatto e te lo mangi, dice proprio così. E quindi ecco l'importanza di una persona, in questo caso il maestro, ma anche la forza di volontà di questo bambino e di sua madre, che hanno spinto poi questo bimbo a diventare quello che poi è diventato, cioè un immenso scrittore, e qualcuno a cui dobbiamo veramente tanto. Io quando ho incontrato per la prima volta il libro Lo straniero, ero ragazzo, e devo dire che mi ha marchiato proprio, no? Gianni, un'ultima domanda appunto relativa proprio alle scelte artistiche di questo film, appunto agli attori, sei andato a pescare insomma a piene mani nel meglio della recitazione francese, e anche appunto a questa scelta dei doppiaggi molto particolare. Abbiamo detto appunto per esempio di questo Sergio Rubini, che con il suo accento che non dimentica mai le sue radici baresi, però dà a questo maestro quella radice di campagna in un certo senso, che un po' era presente anche nel personaggio. Certo, e guarda, abbiamo fatto un'operazione, se si può dire, un po' inversa, vale a dire, in Francia le facce e le persone che hanno recitato non sono attori molto conosciuti, proprio perché volevamo evitare che la personalità di un attore si sovrapponesse in modo molto forte all'immagine che la gente ha di uno scrittore realmente esistito. Quindi da una parte un attore bravissimo che però non è un vivo, che fa Camus, e dall'altra parte due attrici praticamente riesordienti, nel senso che non lavoravano da molti anni, che fanno la parte della madre e della nonna. Forse l'unico nome che per gli italiani è familiare è quello della madre quando è giovane, che è interpretato da Maya Sans, che è una bravissima attrice, però non è che sia una diva da tappeto rosso. Quando sono venuti in Italia con la necessità di doppiare il film in italiano, a un certo punto mi sono detto, ma il doppiaggio convenzionale forse gli sta un po' stretto a questa storia, preferirei che qualcuno lo rirecitasse nella nostra lingua. E allora ho chiamato in aiuto un po' di attori che conosco, che hanno lavorato già con me, e l'abbiamo rifatto praticamente in un modo diretto, in un modo diverso da quello che è proprio il doppiaggio tradizionale. I nomi sono, a parte quello che abbiamo citato, cioè Sergio Rubini, sono Pierfrancesco Favino, sono Giancarlo Giannini, e soprattutto scusate se dico soprattutto, perché fa un lavoro straordinario, Kim Rose Stewart, che doppia due personaggi, c'è lo stesso personaggio in due epoche diverse, e in una maniera, devo dire, sorprendente e notevole. Benissimo, grazie. Allora Gianni Amelio, questo è Il primo uomo nei cinema italiani da questo fine settimana, un film davvero da non lasciarsi scappare. Grazie Gianni. Grazie a voi, arrivederci. E allora abbiamo tenuto in fondo la parentesi del nostro game, per non interrompere un'emozione, come diceva una famosa pubblicità, cioè l'intervista con Gianni Amelio. Sentiamo la seconda traccia del film misterioso di oggi. Perché sprecare il mio tempo per rum, tabacco, melassa e datteri, quando hai a bordo un carico assai più prezioso? Dov'è nascosto? Prima dovrai uccidermi. La Rosa Purpurea @radio24.it, diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo, provate a vincere il Blu-ray di questo film più tardi, ci sarà l'ultima possibilità. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qui, Rosa Purpurea, quarta parte, significa cinema da vedere in casa, cinema da recuperare, grandi classici, televisioni gratuite ovviamente del digitale terrestre, che offrono tante possibilità di visione e revisione dei film. Come sempre noi andiamo a dare un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana insieme agli amici del settimanale Film TV, ed è in collegamento con noi dalla redazione Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco e bentornati a tutti i radioascoltatori. Allora Giulio, oggi abbiamo messo insieme una coppiata di film davvero quasi schizofrenica, perché si va da Nanni Loy a Giorgio Romero, ma insomma il cinema è bello proprio perché vario. Cominciamo con Nanni Loy, con Le quattro giornate di Napoli. Sì, Le quattro giornate di Napoli, il 25 aprile su Rete 3 alle 8:15 di mattina, dal 28 settembre al 1 ottobre 1943, la rivolta improvvisata e vincente del popolo napoletano contro l'occupazione tedesca prima dell'arrivo degli alleati. Da un soggetto di Vasco Pratolini e con quattro sceneggiatori, Loy gira un classico del cinema resistenziale, con accenti da dramma e descrizioni quasi documentaristiche, e un'opera corale che mantiene un respiro epico, che frammentaria ma non dispersiva, che procede per episodi d'eroismo individuali ma orchestrati con grande fluidità. Per non dimenticare, fin dal risveglio alle 8:15 di mattina il 25 aprile su Rai 3. Assolutamente, ricordiamo l'appuntamento, un film da 25 aprile, Rai 3 alle 8:15 del mattino. Dicevamo poi invece c'è Giorgio Romero con uno dei suoi film meno visti ma davvero più incisivi ed originali. Martin. Sì, assolutamente Martin, su Rai 4 venerdì 27 a 00:45. Martin è un ragazzo che pare avere 18 anni ma sostiene di averne 84, suo cugino invece sostiene sia un vampiro, in effetti il giovane ha impulsi che lo portano ad aggredire e dissanguare giovani donne, prima però di innamorarsi. Martin, il film più amato dal suo regista, il re dei morti viventi, Giorgio Romero, profana la mitologia del vampiro in maniera però che non ironica, non facilmente catartica, ma decisamente disturbante, un film che ci rimane veramente incollati e ci perturba. Questa versione non è la versione che circolò nelle sale italiane, che era quella tagliuzzata di ben 10 minuti, ma è quella americana che comunque già di suo non era il director's cut del regista. E ricordiamo l'appuntamento venerdì 27 aprile su Rai 4 alle 00:45, o sveglia o registratori puntati, perché Martin è davvero un film da non perdere. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Ciao Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Ebbene, questo è il bouquet, ma insomma come sempre il bouquet è molto molto ricco sulle televisioni per andare a recuperare grandi film o a effettuare qualche scoperta. Parliamo di game, parliamo di gioco, giochiamo insieme e proviamo a vincere il Blu-ray di oggi con la terza traccia del nostro film misterioso. La leggenda dice che soltanto una doc può svelare il segreto dell'unicorno, ma c'è voluto un Rackham per completare il lavoro. Quindi hai perso di nuovo, Haddock. Proprio così. Perché non ti fai un goccetto? La Rosa Purpurea, @radio24.it, di che film si tratta? E vogliamo avere anche il vostro indirizzo per poter agevolare le spedizioni. La prossima settimana sveleremo tutto, recensiremo il film, come facciamo adesso col game della settimana scorsa. Charlie, gli devi insegnare a boxare. Stai scherzando? Il comando vocale di Noisy è troppo avanzato per lui. Certo, ha bisogno delle tue mosse, dei tuoi comandi, deve ricominciare tutto da capo. Scordatelo. Ed era Hugh Jackman, protagonista di Real Steel, film disneyano, uno dei film più interessanti nella sua semplicità, nella sua narrativa, assolutamente anche con molte concessioni, se vogliamo, ma più interessante per il mondo che sapeva ricreare, fra quelli usciti nelle ultime stagioni. Real Steel era il nostro game della scorsa settimana, ora in Blu-ray. Lo hanno indovinato per primi il sabato e la domenica, e lo vincono Deborah Aneto di Cogoleto, Genova, Renzo Murgioni di Casciago, Varese. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di Real Steel della Disney, di cui ci parla il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, l'edizione alta definizione di Disney offre una visione veramente entusiasmante, con un risultato qualitativo capace di restituire le suggestioni della sala cinema. C'è una doppia traccia DTS, addirittura 8 canali, sia per l'italiano, almeno questa volta, che ma anche per l'inglese, ed è proprio con l'inglese che migliora ulteriormente il panorama sonoro. Ci sono tanti extra, il commento del regista, vari approfondimenti sugli effetti speciali, la realizzazione dei robot, ma molto interessante un focus sul vero pugile Sugar Ray Leonard che ha preparato l'attore Hugh Jackman per le sequenze di boxe. E questo è interessante, la consulenza di un grande come Sugar Ray Leonard. Questo era Real Steel. Noi a questo punto invece vi diamo un altro paio di spunti per andare in videoteca con un minimo di informazioni, perché ci è arrivato in videoteca un altro capolavoro recente di Aki Kaurismäki, che si intitola in Italia Miracolo a Le Havre. Il titolo originale era semplicemente Le Havre, ed è un vero e proprio apologo della tolleranza. Mio figlio doveva raggiungerla subito dopo con Idrissa, ma è stato... è morto. E lei che cosa conta di fare? Tanto va, la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. In tutti i modi, io sono vecchio, ma se solo lei potesse... Le do la mia parola, non sono solo, ho degli amici. Deve impedirglielo, non lasci che venga espulso quel ragazzo. L'anziano Marcel vive nella città portuale di Le Havre, dove fa lo strascarpe. L'uomo si ritrova contemporaneamente a dover affrontare due diversi problemi: la malattia della moglie, ma soprattutto l'incontro con Idrissa, questo ragazzino africano arrivato in Francia nascosto in un container in fuga dalla polizia, che vorrebbe raggiungere l'Inghilterra dove si trova la madre. Attualissimo, toccante, il film di Kaurismäki, che è arrivato in DVD grazie a BIM, la qualità audio video è molto buona, c'è una doppia traccia Dolby Digital italiano e francese, quest'ultima da provare per assaggiare le atmosfere create dai dialoghi in presa diretta. Come extra c'è un'intervista al regista. E c'è invece un film con Mila Jovovich di cui vogliamo parlarvi, è un'uscita in DVD particolare, un film che esplora i temi dell'identità ma con molta molta azione, si intitola Faces in the Crowd. Mi scusi se le faccio tutte queste domande, ma non vorrei venirla a trovare in obitorio la prossima volta. Non riesco più a riconoscere un volto, lo capisce? Lo capisce? Dal giorno dell'incidente. Senta, quell'uomo potrebbe essere proprio davanti a me, non me ne accorgerei nemmeno. Quindi non sprechi il suo tempo cercando di spaventarmi, perché io ho già paura, mi creda. Sopravvissuta alla ferocia di un serial killer, Anna, mentre tentava la fuga, è precipitata da un ponte battendo la testa. Al suo risveglio in ospedale non è in grado di riconoscere coloro che le stanno accanto, in quanto il violento trauma cranico le ha provocato la prosopagnosia, un disturbo neurologico che impedisce di distinguere i tratti somatici delle persone. Quello che è peggio è che l'assassino sa perfettamente chi è Anna, che rischierà costantemente la vita, almeno fino a quando non sarà in grado di ricordarne il volto. Convenzionale nel racconto, il film francese di Julien Magnat, esperto di serie TV americane, conferma una buona scrittura registica. Nel ruolo di Anna, appunto, una convincente Mila Jovovich. Edizione Koch Media, sia DVD che Blu-ray. Noi consigliamo l'alta definizione per ricreare al meglio le atmosfere di questo thriller. C'è una doppia traccia di DTS ad alta risoluzione italiana e inglese. Purtroppo non ci sono extra. Allora, grazie Claudio. Appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E sentite già le note della nostra sigla sullo sfondo. Finisce qui la puntata della Rosa Purpurea. Appuntamento fra 7 giorni, come sempre, il sabato alle 18 e la domenica in replica alle 15. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Filippo Reggi in regia. Un saluto da Franco D'Assisti.